Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi parliamo di un'esperienza che punta a sciogliere, o almeno a rendere più scorrevole, diciamo così, uno dei tanti nodi della burocrazia italiana. Quel tipo di nodi che si trasformano in code estenuanti negli uffici della pubblica amministrazione. Parliamo più precisamente di portare alcune pratiche dei tribunali negli uffici comunali, che sono intanto molto più diffusi sul territorio e, lasciatemi dire, anche un po' più orientati al contatto con il pubblico di quanto non siano gli uffici giudiziari. C'è un progetto che vede come principali attori, insieme ad altri di cui poi vi parleremo, il Comune e il Tribunale di Milano. E la nostra Chiara Albicocco ne ha parlato con Claudio Castelli, responsabile dei progetti di innovazione del Tribunale di Milano. Sentiamo com'è andata. Il progetto è stato vinto nell'ambito di un bando regionale. Il protagonista principale è il Comune di Milano, in partnership con Tribunale e Procura di Milano, Politecnico e Università di Brescia. L'idea è quella di fare in modo che i cittadini che presso gli uffici giudiziari di Milano hanno moltissima certificazione, cioè se chiunque viene in palazzo di giustizia vedrà delle code per le persone che cercano di avere, soprattutto i due grandi certificati sono il certificato penale, cioè quello in cui si attesta i precedenti penali che uno ha o non ha, e d'altro lato i carichi pendenti, cioè se ha procedimenti penali in corso, ma ci sono anche molte altre certificazioni. Oggi per averle il cittadino è costretto a venire in palazzo di giustizia, fare una domanda e poi tornare per riceverli. La nostra idea sarebbe che poi, è un'idea su cui sono avuti moltissimi progetti, adesso speriamo che questo, che ha anche un finanziamento serio, possa vedere la luce in tempi rapidi, e di fare in modo che il cittadino possa avere queste certificazioni non solo presso il tribunale, ma anche presso il comune, questo vuol dire presso gli uffici dell'anagrafe, e presso quindi molti sportelli, in modo tale che sia per lui più comodo sia poterli richiedere che poterli avere. Ecco, qui i vantaggi, alcuni sembrano molto evidenti, insomma il tribunale a Milano ce n'è uno, c'è magari qualche altro ufficio delocalizzato, però ovviamente gli uffici comunali sono molti di più, quindi sicuramente una maggior capillarità e quindi una distribuzione, una diminuzione anche del carico di lavoro, ma certamente anche un'attenzione invece al cittadino che magari per chiedere informazioni o per svolgere pratiche, appunto come diceva lei, abbastanza semplici, quali richiedere un certificato, può andare insomma nel sportello sotto casa. Certo, tenga conto che il numero di persone, questo, ci sono state due ricerche in Italia, una l'ha fatta un'associazione presso il Tribunale di Bologna e una è stata fatta a Milano dal Politecnico nell'ambito di un progetto europeo, e cioè il 50% delle persone che accede nel Palazzo di Giustizia sono persone che vengono non perché hanno cause o processi in corso, ma per avere o certificazioni, come quelle di cui abbiamo parlato prima, oppure per pratiche di volontaria giurisdizione, che possa essere tutele, amministratore di sostegno o altro. Questo vuol dire che la quota di persone che accedono in palazzo di giustizia per questi motivi è enorme. Stiamo parlando di, in un anno, centinaia di migliaia di persone. Il problema che abbiamo è quello di fare in modo di dare un servizio più comodo, non solo, ma bisogna dirlo anche con molta franchezza, di sgravare le cancellerie da un impegno formidabile che al giorno d'oggi debbono svolgere. Questo vuol dire anche utilizzare le tecnologie, per cui vuol dire anche la possibilità di avere una serie di certificazioni online, quindi con servizi di richieste online, e dopodiché di poter dare nel posto più vicino possibile il certificato che la persona vuole. Cioè si può prenotare via mail e certo, poi venirlo a ritirare nello sportello certo comunale. Come funziona? Le persone che noi ci troveremo davanti, perché adesso magari le chiedo anche a che stato siamo del progetto, cioè il progetto presenta dei vantaggi evidenti, quindi sarebbe bello averlo il prima possibile. Le persone che ci troviamo davanti chi sono? Funzionari comunali oppure esperti, ad esempio, che vengono formati apposta? No, quelli che avremo saranno funzionari comunali. Il problema è un altro, e cioè il fatto che per tutte le attività che verranno fatte, ma riguarda il comune per quello che riguarda l'attività della giustizia, ma riguarda la giustizia per quello che riguarda il comune, ovviamente verrà fatta un'attività di formazione. Certo, e invece a che punto siamo del progetto? Il progetto è interessante, insomma. È stato assegnato nel novembre del 2012, quindi abbastanza recente. Io credo che realisticamente nel giro di un anno dovrebbe essere sostanzialmente chiuso. L'idea di fondo sarebbe di chiuderlo sostanzialmente entro l'anno, cioè entro il 2013. Bene, quindi ci siamo. E concluderei chiedendole se esistono dei casi invece, dei progetti di questo genere in Italia già funzionanti o che abbiano appunto dimostrato che la sinergia giustizia ufficio comunale funziona. Guardi, non esistono al giorno d'oggi. C'è un progetto nazionale che è il progetto PAS, che andrebbe nella stessa direzione, cioè che era quello del dare sia agli uffici comunali sia alle poste la possibilità di dare certificazioni, che purtroppo è lo si è nato addirittura all'inizio degli anni 2000, ma non se ne sente più parlare. D'altro canto tenga conto che un progetto generale, anche questo più degli uffici giudiziari, ma anche con la collaborazione del Comune, che è in corso rispetto a Milano, è che nel giro di un anno dovrebbe essere realizzato un gigantesco ufficio relazioni per il pubblico, dico gigantesco perché vuol dire una ventina di sportelli, per fare in modo che il cittadino, non stiamo parlando dell'avvocato, ma il cittadino sostanzialmente possa nel lato del Palazzo di Giustizia, con un sistema anche online, per cui le richieste possibilmente devono essere sempre fatte online in modo tale che uno venga una volta sola a ritirare. O anche ad avere le informazioni che vuole, perché c'è anche un problema di informazioni, questo tra l'altro in accordo anche con loro degli avvocati, perché ad esempio che tutta la questione gratuito patrocinio potrebbe essere affrontata lì, in modo tale che il cittadino venga sostanzialmente fermato all'ingresso e lì venga a essere soddisfatte le sue esigenze. Questo è un cambiamento radicale di immagine anche rispetto al cittadino, anche perché l'idea è di fare in modo che i palazzi di giustizia, che non sono luoghi ospitali perché l'attività che si svolge è un'attività spesso insomma ingrata, però possano avere un'immagine e un impatto positivo rispetto all'utenza. Grazie a Chiara Albicocco, grazie a Claudio Castelli, buona serata a tutti voi, noi ci risentiamo domani.